G. Ascolta il dialogo e controlla se hai scritto le informazioni giuste. Ciao ragazzi! Buongiorno! Vorremmo chiedere quanto costa l'iscrizione a un corso di nuoto. Il corso di nuoto? Sì, un attimo, per favore. Sto stampando i programmi. Ecco a voi il programma. Ah, sono molte lezioni. Sì, sono 32 lezioni. Ci sono 2 lezioni alla settimana e alla fine del corso ricevete il brevetto di scuola di nuoto federale. Non vogliamo avere un brevetto. Vogliamo solo fare un po' di sport e imparare a nuotare un po' meglio. Allora, potete fare l'abbonamento per il nuoto libero e prenotare alcune lezioni individuali. Sì, è una buona idea. Se siamo in 2, le lezioni individuali costano di meno. Infatti, per ogni lezione spendete 11 ciascuno invece di 22 euro. Grazie. Adesso ci pensiamo un po' e poi torniamo per l'iscrizione. Va bene. Ecco un altro programma. Ah, sì, grazie. Arrivederci. Arrivederci.